malade. Appuis un pont en arbre une jaloude. Stucce lumi qui grigie diventate. Da quante tu te ne si iuta. Sole, sole malade. Stai là come vedi tutte fernute. Io penso a te che chi agli abbraccianate. Amore mio, che t'aggia di sento nostalgia chi lo sole. Caccia bruciava bella mia sul mare. E quando arezza ci stendeva amore che te sospira. E tu stivi in braccia a me. Malade, stai là come per te, tutte pernute. Io penso a te che chi agli abbraccianate. Amore mio, che taggia di. Ci resta una speranza primavera, ci resta una compagna nostalgia, appena passa piena vita mia, trova una via, appena me la cerca, sole, sole malate. Io penso a te che chi agli abbraccianate. Amore mio, che taggia di. Amore mio, che taggia di. Antonio Morbini, Riccardo Nori.